Effetto Mondo. When you can't do what you do what you can. This ain't my prayer, it's just a thought I'm wanting to send. Eccoci qua, ciao Giulia. Buongiorno. Buongiorno. Cosa stavamo ascoltando? Insomma, ma sì, una nota musicale, visto sì. Che insomma abbiamo forse bisogno tutti, la musica può essere, secondo me, molto terapeutica. Comunque questo era Jon Bon Jovi, che dai suoi canali social, un po' come aveva fatto, e ne avevamo parlato, Will.i.am, come avevano fatto Will.i.am dei Black Eyed Peas e Bono, si è un po' inventato una canzone. La cosa bella di questa è che lui ha creato con la chitarra la parte musicale, un paio di strofe, poi mi invita tutti a mettere il proprio testo, e sempre sui canali social. Abbiamo un leggero disturbo, scusa Giulia, vediamo se regia siamo in grado di rimettere in linea la tua voce, perché stava ballando letteralmente. Sentiamo Giulia? Io? Mi sentite meglio adesso? Adesso sì, perfetto, prego. Ok, e quindi insomma migliaia e migliaia di fan hanno risposto, magari anche aggiungendo degli strumenti musicali, quindi è un bel progetto di condivisione, insomma, ognuno a casa propria. E il titolo è "Quando non puoi fare, when you can't do what you do", quando non puoi fare le cose che fai normalmente, do what you can, fai quello che puoi. E naturalmente con la voce bellissima di Jon Bon Jovi. È accaduto tante volte anche qua da noi, tanti artisti che da casa loro si sono messi così a strimpellare. È un modo, credo, anche per scoprire lati nuovi, no? di queste certo. Personalità, grandi persone, anziché vederle esibire su un palco piuttosto che in casa loro. Giulia, venendo invece alle notizie sui giornali, se sì. Vuoi cominciare dagli Stati Uniti, perché insomma si è mosso sì. Qualcosa ieri, no? Sul fronte non coronavirus sì. Ma della campagna. Sì, Obama, ex presidente Barack Obama, ha fatto il suo endorsement ufficiale, anche lui naturalmente con un video su Facebook, in diretta Facebook, scusatemi, che naturalmente si può recuperare, e ha fatto il suo endorsement ufficiale a Joe Biden. 6 minuti, dove ha tessuto le lodi dell'uomo che lui comunque aveva scelto come vicepresidente, e ha invitato tutti a votare per Joe Biden. Se vuoi sentiamo la voce sì. Molto calda e molto, insomma, è diventato famoso anche per questo suo modo di parlare molto pacato, Obama. Sentiamolo. And that's why I'm so proud to endorse Joe Biden for president of the United States. Choosing Joe to be my vice president was one of the best decisions I ever made, and he became a close friend. Cosa ha detto? Dice appunto, scegliere Joe Biden come il mio vicepresidente è stata una delle migliori scelte che abbia mai fatto, ma siamo anche diventati amici. Questa notizia, un po' come ieri, non è l'apertura di nessun giornale, ma viene registrata, perché in realtà l'apertura sono, come su tutti i giornali, le previsioni del Fondo Monetario Internazionale. Sul Wall Street Journal, questo mi ha molto colpito, c'è la foto di un funerale, come se fosse un po' un drive-in, grande schermo, si vede proiettato sul grande schermo il funerale che avviene all'interno di una chiesa, e fuori tutte le persone chiuse nelle loro macchine che seguono il funerale, certo. Perché in tantissimi stati ci sono le restrizioni appunto per tutte le celebrazioni religiose o appunto i funerali. L'altro grande tema, ed è sulle prime pagine di tutti i giornali, è questo scontro tra il presidente Trump e i governatori, perché all'inizio c'è stato un po' un rimpallo. All'inizio lui diceva tante cose le dovete fare a livello locale, poi ieri, quando ha visto che i governatori cercano di prendere le decisioni sul lockdown o la fine del lockdown in libertà, si è molto arrabbiato, ha detto che vuole prenderle tutte lui, e tra l'altro, come aveva anticipato, ha detto che congelerà i fondi che gli Stati Uniti danno all'Organizzazione Mondiale della Sanità, che sono intorno ai 500 milioni. Peanuts, in realtà, cioè, capite che con le cifre di cui stiamo parlando, trilioni, però gli Stati Uniti sono il più grande finanziatore dell'OMS, circa 10 volte quello che ha dato la Cina negli scorsi anni, e quindi Trump ha detto, giustificazione ufficiale è: voi avete sbagliato tutto nelle previsioni sul Covid, quindi non meritate i nostri fondi. In realtà c'è un po' come un sottotesto, che è un ulteriore capitolo della lotta, possiamo anche chiamarla guerra, se vuoi, commercial-diplomatica con la Cina. Assolutamente, poi c'è sempre una vecchia questione aperta di Trump con tutti gli organismi multilaterali, internazionali, l'ha fatta anche con l'ONU, e poi c'è anche una questione, mi sembra, politica che riguarda anche il nostro paese, di rimpallo di responsabilità tra scienziati e politici, no? Che cioè, sta cominciando certo. un po' a montare, ma non anche voglio entrarci perché non ne usciamo. Anche perché Trump insiste, e su questo vorrebbe che i governatori lo seguissero, invece molti sono titubanti, insiste per aprire tutto il primo di maggio, e il suo principale consulente scientifico, sappiamo, Anthony Fauci, ha detto bah, insomma primo maggio mi sembra un po', però non l'ha detto in modo categorico, quindi su quello insomma lo scontro non è a livelli pericolosi. Invece nel Regno Unito sta succedendo quello che purtroppo è successo qui da noi, cioè la strage di anziani nelle case di cura. Secondo il Daily Mail sarebbero 4.000, che vuol dire insomma un po' meno della metà dei morti totali. Tanto, Su questo naturalmente si indagherà. Per ora non sono ancora state aperte inchieste giudiziarie come qui da noi, però insomma credo che qualche cosa succederà a breve. Mentre il Times si focalizza su un altro tema che purtroppo penso verrà fuori anche qui, che è quello che ci sono tantissime morti rispetto allo stesso periodo dello scorso anno per altri motivi, perché le persone hanno paura di andare in ospedale, perché hanno paura o di contagiarsi o comunque di non trovare l'assistenza sapendo che gli ospedali sono congestionati, e quindi a volte muoiono a casa per patologie pregresse che non hanno niente a che vedere col Covid. Quindi insomma veramente una crisi, come dicevi tu, che ogni giorno si mostra in un nuovo aspetto, e più va avanti più verranno fuori appunto aspetti ancora più complessi da gestire. Ho ascoltato con estremo interesse il modo molto pratico, sensato che hanno utilizzato in Emilia Romagna. Sì, è molto, molto interessante, speriamo che qualcuno l'abbia ascoltato. Giulia, invece restando in Europa, per esempio la Francia, no? Perché sta un po' montando anche questo dibattito sulle riaperture, dicevi comunque negli Stati Uniti se ne parla, in Francia l'annuncio ci ha dato lo stesso Macron, si ripartirà l'11 maggio, che cosa ha raccolto? Liberation ha proprio la fotografia di un bambino con la sua mascherina, è un bambino che avrà meno di 10 anni, e il titolo è 11 maggio, ma vale la pena di scegliere questa data a tutti i costi? Perché c'è un sondaggio di Le Figaro che dice che i francesi vorrebbero andare verso il lockdown, la fase 2, naturalmente loro non lo chiamano né lockdown ma confinement e deconfinement, ma sulla questione delle scuole la maggior parte dei francesi sono molto più cauti. L'altra ultimissima segnalazione che volevo farti dai giornali tedeschi, viene dato invece molto, anche lì si parla già di riapertura delle scuole, poi comunque ricordiamoci che l'Italia è, credo insieme alla Spagna, è l'unico paese dove si va a scuola praticamente fino all'inizio di giugno. In Germania per esempio si va a scuola, e anche nel Regno Unito, fino a metà luglio, quindi avrebbe già più senso per riaprire le scuole. Però in Germania si parla molto di un altro aspetto legato all'epidemia di Covid, che è quello dei contagi nelle carceri, e si dà conto di questa mossa di Erdogan, che ha liberato 90.000 detenuti dalle carceri turche, tranne naturalmente quelli politici, che forse sono anche i meno pericolosi per la società, ma non per lui naturalmente, e tutti i giornali tedeschi danno conto di questa notizia. Grazie Giulia, grazie anche per oggi, è tutto per Effetto Giorno, per questa puntata con Andrea Roccabella in regia, Luca Cremonese in assistenza in diretta, Jacopo De Franchi in redazione, da Alessio Maurizi ciao, l'auguro di una buona giornata, ci sentiamo tra poco per i titoli delle 14, ciao.